Io prego Dio che facci crollare il Vaticano, che rappresenta ai miei occhi un insulto per chi crede davvero, che cacci gli imperatori, che allontanano l'uomo dal cielo, dalla terra, dalla pietà, dal perdono. Io prego Dio che chi sputa ricchezza sia condannato, chi vive crocifisso dal ricatto del peccato e spara sulla folla, scomunica senza fiato, e della religione ne ha fatto un gran massacro. Io prego Dio di far nascere un nuovo cielo, che è dentro ogni uomo, che vive il divino. Io prego Dio di difendere chi è oppresso, dalle ingiustizie umiliato, deriso, ridotto all'osso. A chi si nutre di vergogna, io prego Dio che siano ripudiati gli ipocriti politici di potere assatanati, che gli sia data la sorte che loro riservano ai poveri e che i poveri possano avere da vivere con i loro simili. Io prego Dio di rafforzare i ribelli, dargli i mezzi per combattere, figli del sole, figli miei belli. Io prego Dio di far nascere un nuovo cielo, che è dentro ogni uomo, che vive il divino. Io prego Dio di difendere chi è oppresso, dalle ingiustizie umiliato, deriso, ridotto all'osso. Dio di cancellare i templi del gossip, le torri della televisione, cattedrali avariate oscene. Io prego Dio che tutto avvenga al più presto, perché questa generazione possa vedere che l'uomo è giusto. Io prego Dio che l'uomo non sia macchina da guerra, né il sacerdote del nulla, ma una scintilla che brilla. Io prego Dio che ascolti la mia preghiera. Oggi abbiamo bisogno, oggi viviamo nella miseria. Io prego Dio di far nascere un nuovo cielo, che è dentro ogni uomo, che vive il divino. Io prego Dio di difendere chi è oppresso, dalle ingiustizie umiliato, deriso, ridotto all'osso.